Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Sono le 15 in punto e quindi è il momento di iniziare il sabato pomeriggio in diretta di Radio 24, il sabato del villaggio, dove, lo dico sempre, sono quasi 2 anni che la dico così, fa niente. Il villaggio è il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, come dice il titolo, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come tenermi compagnia qui al freddo di questo studio? Sono entrata, non lo so, ci sono i pinguini, non so in che condizioni hanno lasciato l'aria condizionata, quelli che mi hanno preceduto, mi sono messa la sciarpa per non lasciarmi sola. Oltre che al freddo, c'è il numero per i vostri SMS e WhatsApp, più 349-238-6666, 349-238-6666. E poi c'è anche il mio account di Twitter, @MartaCagnola, gli hashtag ISDV, cioè il cancelletto iniziali di Il sabato del villaggio, ma poi avremo anche cancelletto RadioTube. Insomma, avete moltissimi modi per raggiungermi, per fare domande. Abbiamo tanti ospiti in questo sabato del villaggio, ma a questo punto scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Il tema di questa puntata: quando la realtà irrompe nell'arte. Sentirete che ospiti e sentirete perché. Il tema sembra un po' misterioso, ma scopriremo insieme perché. Intanto, appunto, le tecnologie con Enrico Pagliarini. Usare un'app e guadagnare sul serio, un'app che è anche un lavoro. L'appuntamento con il gastronauta, questa volta andiamo a Senigallia e poi parleremo di una nuova tendenza, i consigli per le uscite al cinema del fine settimana, ma anche una fiction importante che sta per arrivare sui nostri schermi televisivi. Ma prima, beh, mancano poche ore alla conclusione di Cannes. Andiamo a Cannes! Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Intanto saluto Mario Seminerio che mi scrive un tweet: per aria condizionata palla citofonare Oscar Giannino. Ragazzi, ma avete i bollenti spiriti, sembra il Monte Bianco, altro che via Monte Rosa. Scherzi a parte, che bella questa Senza fine. Sono 2 o 3 giorni che sui social network tutti ricordano questa canzone, perché è uno dei leitmotiv di un film che è appena uscito nelle sale italiane. Ne parleremo poi con Franco D'Assisti, anche con Franco D'Assisti, La pazza gioia di Paolo Virgilio, che è uno dei film italiani presentati a Cannes. Anche se nessun film italiano era in concorso, non era l'unico film italiano presentato a Cannes, anche qui tanta realtà, la realtà di 2 donne con dei seri problemi psichiatrici che si ritrovano in un film pieno di poesia, lacrime, risate. È piaciuto molto questo La pazza gioia, ne parleremo tanto con Franco D'Assisti, ma io l'ho detto, voglio andare direttamente a Cannes. Beh, non posso farlo io in prima persona, ma c'è il nostro amico Gabriele Niole, ci colleghiamo con lui. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora, come sta andando? Com'è il tempo a Cannes? Lo so che la domanda è stupida, ma Cannes mi pare bello da vedere le foto, eh? Mi pare che siano stati dei bei giorni. C'è un sole straordinario che invita a disertare le proiezioni. Un gran classico questo. Succede a volte anche a Venezia, che uno dice: ma perché devo chiudermi in proiezione, in sala, e si sta così bene? Allora, io ho cominciato citando La pazza gioia di Paolo Virzì, con questo tema, un po' la realtà che irrompe nella finzione, nella fantasia, nel cinema. Gabriele, in questo Festival di Cannes, in più film questo è successo? Sì, ce ne sono veramente tanti, non potremo elencarli tutti purtroppo, però ne voglio dire uno, il più clamoroso, che è Risk. Risk è un documentario di Laura Poitras. Immagino che qualcuno stia già dicendo: beh, bella forza, era facile dire un documentario quando parli di realtà. Ma in realtà è più reale del vero. Cioè, il documentario racconta di Julian Assange, il capo di Wikileaks, e di quello che ha subito e sta subendo. però è talmente reale che non ricostruisce la sua storia. Era lì. Laura Poitras, la regista, era con Julian Assange quando accadevano quelle cose che noi abbiamo letto sui giornali, quando lui veniva perseguito, quando riceveva la notizia che avrebbe avuto asilo politico dall'ambasciata ecuadoregna. Era in moto dietro di lui quando scappava verso l'ambasciata. Insomma, è un documentario che ha le vere immagini di quello che è successo. È una cosa che, non lo so, 10-20 anni fa era impensabile. Cioè, era impensabile che un documentario potesse essere così dentro i fatti, perché so, le videocamere erano più ingombranti, per tante ragioni. Oggi invece possiamo avere queste immagini, è pazzesco, è un nuovo livello di racconto della realtà. E poi fortunatamente adesso i documentari cominciamo a vederli anche in sala, quindi speriamo di vederlo nelle sale italiane, perché un tempo i documentari si vedevano solo nei festival e poi ne parlavano i giornalisti, ma gli spettatori non li potevano vedere. Adesso invece speriamo che abbia presto una distribuzione italiana. Altri film che ti hanno colpito e che ci vuoi segnalare, Gabriele? Allora, ce ne sta uno che va segnalato per forza perché c'è di cui andarne fieri, è italiano. Oh. Non solo La Pazza Gioia, che l'hai ricordato tu, e non lo menziono perché so che ne parlerete e sono contento perché mi è piaciuto, ma Fiore. Ah, Fiore, vedi, perché La Pazza Gioia ha dominato un po' i titoli qui in Italia, perché inevitabilmente è un film così potente. Ma è anche bello, per cui sono contento. Però Fiore è il film della nostra sorpresa a Cannes. Claudio Giovannesi è un regista che magari il grande pubblico non conosce, ma ha già 2-3 film alle spalle, piccolini. Però con questo qua, che ha Valerio Mastandrea e attori che non sono professionisti, e già c'è un po' di realtà, sta qui a Cannes nella Ken Zen, ha figurato molto bene. Ed è un film girato nei veri carceri, racconta una storia d'amore, è un film romanticissimo, un film quasi un melodramma, però con quello stile che sappiamo avere noi, attaccatissimo alla realtà. Ci sono due ragazzi, Joshua e Daphne, sono i loro veri nomi, sia nel film che nella realtà, che si innamorano in questo carcere, e è una storia che è così concreta, così vera, così reale, e guarda, a me mi ha colpito veramente. A questo punto mi viene un po' da dire, lo dico con un po' di amarezza, io non ho visto ancora Fiore, ho visto La Pazza Gioia, è un peccato che non siano in concorso, perché a questo punto forse ci poteva stare anche il concorso principale. Guarda, un po' sì, perché come ogni anno poi il concorso principale aveva delle cose anche che magari potevano non starci. Che tu insomma, dici questo potevamo proprio... anche farne a meno, ecco. Sì, ecco, non tutte perle, mettiamolo così. Però la Ken Zen non è per niente la Ken Zen, magari per chi non lo sa, è una sezione parallela. Si svolge proprio in un altro luogo, ci vogliono 10 minuti a piedi per arrivare dal palazzo del festival nel posto in cui si svolge la Ken Zen, ma è il posto in cui si sono viste opere di Coppola, di Scorsese, di Werner Herzog, di tutti i più grandi in assoluto, cioè è un posto di gran prestigio, è un posto, diciamo, Irzia ha detto bene, ha usato l'aggettivo scapigliato, ed è vero, è così. Bello, bello. Tra l'altro Fiore uscirà presto perché leggo 25 maggio a Roma e Milano, dal 1 giugno nelle sale di tutta Italia, quindi anche noi lo potremo vedere molto molto presto. Guarda, io voglio chiederti una cosa, lo so che è un po' un gossip, ma ho visto delle immagini di Sean Penn che non capivo se fosse arrabbiato, turbato. Che cosa è successo a Sean Penn? È successa una cosa che, insomma, secondo me ha la sua gravità, insomma, non è una cosa... addirittura. Allora, alla prima proiezione in assoluto del suo film, che si chiama The Last Face, suo film da regista, e lui ha diretto e non lo interpreta, gli attori sono Javier Bardem e Charlize Theron, quindi, insomma, un film di peso, un film di livello, lo sono, 2 premi Oscar. La prima proiezione è quella del mattino, prestissimo, alle 8:30, e c'è tutta la stampa, insomma, tanta gente anche smaliziata, che di film ne ha visti, insomma... è finita a risate durante il film, e non è un film da ridere. Allora, però questo devo dire che succede spesso, quando un film non è all'altezza delle aspettative, succede che i critici comincino a ridacchiare e poi si crea questo effetto di emulazione per cui la gente comincia a ridere, prende in giro il film e i registi, diciamolo col termine tecnico, si incazzano. Sì, un po' fanno bene, ma... un po' nel caso particolare, te lo dico, ho riso anch'io, perché è un film che purtroppo presta veramente il fianco al ridicolo. Urca. Cioè è un film, cerco di spiegarlo in due parole, è un film che è tutto ambientato nei conflitti africani e vuole essere molto impegnato sulla tragedia dei conflitti africani, però per raccontare questi conflitti africani parla dei due protagonisti bianchi, che sono Charlize Theron e Javier Bardem, e dei loro drammi, per cui... ci sono questi veri drammi delle persone che vengono mutilate, uccise, massacrate, tra il film si preoccupa di questi due ricchi, bianchi, privilegiati, innamorati che soffrono. E questo chiaramente a un certo punto, alla decima volta che sullo sfondo muoiono dei poveri, dei disperati, e in primo piano invece si commuove Javier Bardem, beh, viene da ridere. Devo dire che Mauro Donzelli, l'amico Mauro Donzelli, anche lui bravissimo critico, ha twittato: dopo aver visto The Last Face capiamo perché Charlize Theron ha mollato Sean Penn. Forse ha ragione, insomma. E Sean Penn si è presentato in conferenza stampa, che avviene 2-3 ore dopo la prima proiezione, visibilmente alterato, ecco. Ecco, io pensavo che succedesse solo a Venezia, invece succede... Invece quella è anche, posso dire, è anche la seconda volta che succede, con il film di Nicholas Winding Refn, che era pure molto atteso, che si chiama The Neon Demon. Ci sono stati insulti sui titoli di coda. Insulti che io non ho capito perché non parlo francese, però insomma diciamo che dal tono e dalla ritmica delle parole ho capito che non erano complimenti. Ok, vabbè, niente, ce lo risparmieremo. Devo dire che le critiche sono state tutte abbastanza unanimi verso il negativo, Fratelli Dardenne invece? I Fratelli Dardenne, hai fatto la domanda giusta, perché loro sono degli alfieri del perché realismo, io ho delle cinema. Aspettative, ecco. Allora, ti dico subito, questo faccio l'angolo del cinema intellettuale. Ah, l'angolo del cinema intellettuale, esatto. Il parere perché dell'intellettuale, sì. Esatto, l'angolo del maglione a collo alto. Ci sono due film che si somigliano. Uno è quello dei Fratelli Dardenne, che si chiama La figlia en connu, cioè La ragazza sconosciuta, che con lo stile di questi due registi racconta una storia come se l'impressione è come se l'aveste ripresa voi. Come se fosse tutto vero, cioè non fatto per finta. In realtà ci vuole una maestria pazzesca per arrivare a questo livello, in cui appunto una ragazza, un medico, ha questo problema che non ha risposto al citofono del suo studio perché era tardi, e il giorno dopo scopre che era una persona che chiedeva aiuto e poi è stata uccisa. E tutto il film è lei che cerca di ricostruire che è successo, è un po' come fosse una detective story, perché vuole sanare il suo senso di colpa. Poi c'è un film rumeno che si chiama Baccalaureat di Cristian Mungiu, che è un cineasta che ha già vinto qui a Cannes, che racconta con lo stesso stile identico, molto realistico, di un padre che vuole raccomandare la figlia, e anche lui ha dei dilemmi morali, perché lui sarebbe un uomo retto, ma vuole raccomandare la figlia per il suo futuro più buono. Ora, ho messo a confronto questi due film, perché sono due film che hanno a che vedere con la realtà, però il bello di stare a Cannes, veramente, di vedere questi film insieme in questo festival, è che hai modo di vedere due maniere diverse di vedere la realtà. Per i Fratelli Dardenne, dal modo in cui raccontano, noi siamo soli nel mondo. Non c'è nulla che ci trascende, non c'è la religione, non c'è il conforto, non ci sono delle regole da seguire. Siamo soli e dobbiamo farci le nostre regole. Per questo cineasta romeno, che si pone quasi le stesse domande, invece no, qualcosa c'è. E quando esistono delle tentazioni, se noi cediamo alle tentazioni, se raccomandiamo nostra figlia, arriverà una pena, succederà qualcosa. E ognuno di noi, vedendo questi due film, sceglie qual è il suo mondo, in che mondo vive. Mi chiede un ascoltatore che non si firma, ma vedo che il suo avatar di WhatsApp è un diavoletto. Chiede all'esperto se c'è qualcosa di piccante, di trasgressivo a Cannes quest'anno. C'era qualcosa di piccante e trasgressivo? Beh, trasgressivo è un aggettivo straordinario, perché poi al giorno d'oggi, nell'epoca di YouPorn, trasgressivo fa un po' ridere. Però c'è. I cinefili non si stupiranno nel sentire che io abbino questo aggettivo a Park Chan-wook, che è un cineasta sudcoreano che ha fatto un film che si chiama The Handmaid, cioè la dama di compagnia sarebbe in italiano, che è un film sul sadomasochismo, l'amore lesbico. Ci sono un sacco di scene di amore lesbico, un sacco di amore di menare, diciamo, amore con botte. Amore di menare, esatto. È un film molto bello, non per questi motivi, per tutti gli altri motivi, insomma, perché è molto bello, però insomma, diciamo che è il film trasgressivo, come scriverebbe La Repubblica, di questo festival. mi piacciono queste notazioni così vivaci di Gabriele. Non ti chiedo il Toto Palma, ti chiedo il Gabriele d'Oro, a chi lo dai? Guarda, se sono seri, se la giuria capitanata da George Miller è fatta da persone serie, fanno vincere American Honey, che è un film talmente dolce, bello, profondo, ben girato. Dico solamente la storia dietro il film: è una cineasta donna, e sappiamo che le registe donne sono pochissime, che si è fatta strada da un po' di anni, si chiama Andrea Arnold, quindi diciamo che è una piccolina tra i giganti del concorso. In concorso ci sta Almodovar, Refn, insomma ci sono dei nomi giganteschi. Lei è una piccolina, è inglese, ha fatto questo film in America con pochissimo budget ed è fantastico, dovrebbe veramente vincere questo film qua. Se no, sono il film di Xavier Dolan, che si chiama Giusto la fin du monde. Ah, Dolan mi colpisce al cuore. Gabriele, allora, io segnalo il tuo account di Twitter che è @giniola, anche perché tu scrivi in un sacco di posti, nella tua bio di Twitter ci sono tutti, Bad Taste, Fanpage, 400 calci, Leggo, My Movies, Screen International, Wired, e poi c'è... Poi c'è il tuo blog, Sono vivo e non ho più paura, ma facciamo che se ti seguono su Twitter, @giniola, è più facile trovarti e trovare tutte le cose che scrivi. Grazie Gabriele, buone ultime ore di Cannes! Grazie a voi, ciao! A presto, grazie a Gabriele Niola, noi facciamo una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme con il Sabato del Villaggio, dovrebbe arrivare Enrico Pagliarini, non lo vedo ancora, boh, lo aspettiamo, tra poco. Il Sabato del Villaggio. E ci siamo sempre in diretta, sempre con il Sabato del Villaggio, 349-238-6666, il numero per i vostri sms, per i vostri whatsapp, il mio account di Twitter è @MartaCagnola, mentre Enrico Pagliarini si sistema, sta facendo ciao con le manine. Non ti vedono alla radio? Non si vede. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Aspetta, senti, cosa ti introduco questa settimana? Dovreste vederlo ballare in questo momento, Enrico Pagliarini. Bello, bello. The Eye of the Tiger. Esatto, esatto. Oh, yeah. È perché so che dobbiamo parlare di qualcosa come che ha a che fare con questi? Eye Survivor. Survivor. Fa subito Rocky. Cos'è, la musica subito... di Rocky? È bello, ah, eh? Sì, sì. Questi sono di quei classici che vengono utilizzati. Allora, ci sono gli AC/DC con Thunderstruck. Sì. Poi c'è questa, poi ce ne sono altri 5-6 che vengono utilizzate spesso quando c'è bisogno di musica energetica. Però io in realtà, siccome so che tu devi parlare di qualcosa che ha a che fare con AI, sì, ho detto, vabbè, cerchiamo una canzone banalmente, sì, allora... cane, no? Come quando dici cane e fai vedere un cane. Sì. Eye of the Tiger. Allora, Rocky 4, però... direi, Rocky 4. Sì, però prima di parlare di Eye, il tema è, in un certo senso, soldi, ma non solo soldi. Allora, ogni tanto qualcuno mi scrive e o mi propone un'applicazione che ti permette di guadagnare qualcosa, non necessariamente soldi, ma a volte anche soldi. Uh-huh. E comunque una delle domande che si fanno da sempre, da quando esiste internet, è: ma si può guadagnare? Perché c'è questo mito che con internet e a maggior ragione con le applicazioni su smartphone ci siano alcuni lavoretti che si possono fare in modo molto veloce guadagnando soldi. Un po' come uno dice: io ho un bel negozio in Piazza Duomo, lo affitto, non faccio niente e guadagno soldi. Bello, non, sì. È proprio così, non è proprio così, c'è questo mito che ogni tanto gira. Allora, è vero che ci sono delle applicazioni che ci permettono di, con poco sforzo, spesso dando delle informazioni a chi ce le chiede, informazioni di tipo personale, e ci permettono di raccogliere o qualche soldo, ma mica tanti, uh-huh, che ne so, ci compriamo un gelato ogni tanto, oppure ci vengono dati dei crediti per fare degli acquisti su dei negozi virtuali su internet. Ad esempio, Google ha un programma che si chiama Opinion Reward che ti dà qualche credito per poi comprare qualche applicazione, okay, un po' di musica, eccetera, okay, eccetera. E ti vengono fatte delle domande anche semplici, di che sesso sei, quanti anni hai, cose del genere. Cioè sondaggi marketing, opinione, eccetera, che vengono ricompensati. Esattamente. Ok, capito. Ci sono delle applicazioni che ci fanno vedere la pubblicità. Sì. E in cambio di noi che guardiamo la pubblicità ci vengono dati in alcuni casi qualche soldo, ma molto spesso dei crediti appunto per acquistare qualche cosa su internet, però mica si diventa ricchi. No, cioè non solo lavori, no, ecco. Non ho ancora trovato qualcosa che si diventa che ci fa guadagnare un sacco di soldi. Quando lo trovi dimmelo. Ve lo faccio sapere, se scompaio potrebbe essere... Però così. Fammi una telefonata prima che arrivo. Esatto, comunque insomma, ci sono delle possibilità, quasi tutte sono possibilità in ambito marketing, sì, stiamo a parlare di ricerche di mercato, cose del genere, però in generale possiamo dire che le applicazioni su smartphone hanno allargato la platea del pubblico che può fare qualche lavoretto anche a distanza o comunque in maniera molto più facile. Faccio un esempio che si distacca un po' dal tema di cui vogliamo parlare oggi, ma ci fa capire insomma quante possibilità ci sono in più. c'è una startup, ho intervistato la fondatrice poco tempo fa, che si chiama Le Cicogne, che ti permette di diventare una babysitter e di gestire la tua attività con l'applicazione. Allora, ovviamente nell'era precedente agli smartphone tutto ciò era un po' più complicato. Certo. Quindi di la gestione di molti lavori o lavoretti, se vogliamo chiamarli così, tramite le applicazioni è sicuramente una prospettiva molto interessante. Il mercato si sta espandendo, insomma ci sono sempre nuove opportunità, e oggi noi volevamo parlare, a proposito di AI, sì, di un'applicazione che si chiama Be My AI, che tradotto in italiano potrebbe voler dire sii i miei occhi. Sì, sì, è il mio occhio. E che cosa fa questa applicazione? Ce lo facciamo raccontare da chi gestisce questo servizio, che è Luca Pagano. Benvenuto. Buongiorno Luca. Ciao. Pronto? Eccolo qua. Buongiorno Luca Pagano, che è l'amministratore delegato di questa società. Che cosa fa questa applicazione? Cioè, che cosa è possibile fare con questa applicazione? Poi ci spiegate anche che cosa ve ne fate di queste informazioni che raccogliete. Certo. Beh, innanzitutto congratulazioni per la scelta della musica di introduzione. è una bella carica. Ottima scelta, esatto. Allora, Be My è un'app gratuita che utilizza tecniche di gamification e consente a chi la utilizza di guadagnare in maniera divertente piccole somme di denaro in cambio di micro lavori da svolgere su base volontaria nei suoi dintorni. Be My oggi sta costruendo il più grande network europeo di rilevatori di dati, appunto, che noi chiamiamo AI, che sono in grado di procurare dati e immagini dal mondo reale alle aziende che necessitano di informazioni dai punti vendita o da livello strada. Per esempio, il controllo delle promozioni e dei prezzi all'interno dei negozi, la raccolta di dati stradali per l'arricchimento delle mappe o addirittura la generazione di lead commerciali dei punti di vendita. Quindi voi fate questo fare ai consumatori una cosa che fino a qua, ma ancora oggi, viene fatta da persone che sono pagate per fare quell'attività, però voi dite, sfruttando la capacità delle applicazioni degli smartphone, mandiamo una persona, che potrebbe essere io o Marta, andiamo al negozio e facciamo l'attività per conto vostro e voi in cambio ci date qualche soldo. Allora, io l'ho installata, l'ho installata e ho guardato cosa c'è qui attorno, perché sei geolocalizzato e ti dice cosa puoi fare qui attorno. Adesso non dirò nomi, marche, marchi, ma mi dice che posso andare in un negozio qua nelle vicinanze, svolgere un'attività di mystery shopping, cioè fare finta in incognito di essere un cliente e di valutare l'allestimento del negozio. Sono più o meno così questi job, voi li chiamate? Sì, ce ne sono di diverse natura. Come in un gioco ci sono diversi livelli di complessità, dalla principiante a quello più avanzato. Tutti oggi sono in grado di prendere una foto, di fare una foto usando il loro smartphone. Quindi i giochi, o diciamo le missioni o i job più semplici, prevedono appunto la raccolta di dati sotto forma di fotografie di un punto vendita o di uno scaffale di un supermercato. Man mano che i nostri AI diventano più bravi a fare questo tipo di missioni, possono accedere diventano sempre più veloci a fare dei lavori un poco più sofisticati, come appunto quello del mystery shopping, o addirittura provocare delle attività di sales lead generation, ovvero opportunità di vendita per alcune aziende su larga scala, su diverse migliaia di negozi in giro per l'Europa. Sì, quanti soldi si possono guadagnare? Perché diciamo che effettivamente non è difficile, ma non è nemmeno un'attività che si può fare senza pensarci troppo, cioè bisogna impegnarsi, leggere le regole, fare esattamente quello che viene chiesto per fare il lavoro fatto per bene, quindi non è che basta cliccare su due tasti e fare una fotografia, insomma bisogna un pochettino impegnarsi. Ma quanti soldi si possono guadagnare? Dipende dalla complessità della missione, però tendenzialmente noi paghiamo da 2 euro per una foto molto semplice di un cartellone pubblicitario fino a 30-40 euro a seconda di quanto, come appunto giustamente dici tu, quanta preparazione e quanta capacità richiede la missione specifica. Quindi noi sostanzialmente facciamo leva su tre aspetti chiave. Uno è chiaramente il tempo a disposizione, l'altro è la posizione geografica, ma cruciale anche il talento dei nostri collaboratori. Intanto c'è un ascoltatore che al 349-238-6666 via WhatsApp ci richiede il nome dell'applicazione, è Be My Eye, cioè sì, il mio occhio in inglese. Sì, se uno non sa l'inglese è spacciato. Dai, che ci arriviamo. Allora, giusto per far capire che stiamo parlando di un mercato molto interessante per le aziende, diciamo che Be My Eye ha comprato un'azienda, BMA è un'azienda italiana, giusto Pagano? Assolutamente sì, BMA è stata fondata nel 2011 a Milano da un imprenditore italiano che si chiama Gianluca Petrelli. Sì, sì, infatti. Però l'azienda è italiana, e quindi giusto per dare una notizia di questa settimana, voi avete acquisito Local Eyes, che è un'azienda che fa lo stesso vostro mestiere francese. E, corretto. Devo dire che ultimamente vedo una certa attività molto frizzante nelle start-up, nelle aziende tecnologiche francesi, e i francesi, contrariamente a quello che possiamo pensare, usano molto spesso l'inglese. Noi potremmo pensare che invece anche nel mondo internet i francesi sono attaccati alla loro lingua, invece moltissime start-up francesi si chiamano in inglese. Quanto l'avete pagata Local Eyes? Questa è un'informazione che possiamo diffondere. Una cosa che invece possiamo dire, che dà un po' il senso delle dimensioni di questo mercato e di quanto interessante, che voi avete preso da alcuni investitori, da fondi di investimento, 6,5 milioni di euro, che è una cifra piuttosto consistente. Esatto. Ma queste informazioni che voi raccogliete con questi... con queste persone che girano per negozi, per strade, come le impacchettate e a chi le fornite? Noi le forniamo in tempo reale attraverso una dashboard accessibile online ai nostri clienti, ai grandi clienti nel mondo dei beni di largo consumo. Parliamo di società come Barilla, Coca-Cola, Nespresso, Lavazza, Procter & Gamble, Samsung, Heineken. Abbiamo una serie di clienti internazionali che appunto chiedono dati sempre in maniera più numerosa, in maniera più precisa, e che chiedono sempre di più dati a livello internazionale. In questo mercato in cui confrontandosi con aziende di questa dimensione, avere un profilo internazionale, avere una copertura territoriale quantomeno a livello europeo è essenziale per poter vincere. Devo dire che una cosa che a me piace molto è, aprendo la cartina nell'app, che è normale che ci siano tantissime opportunità attorno a Milano, ma le vedo un po' disseminate in tutta Italia. Che è una cosa, ce ne sono molte al sud, ce ne sono... Sì, devo dire che è una cosa importante, perché vuol dire che date opportunità a tutti. Sì. Luca, grazie. Assolutamente sì. Dici. Grazie a voi per il tempo. No, volevo dire che era un po' il punto che faceva Enrico prima, un po' la differenza che offre Be My rispetto ai classici metodi trattati sul territorio, è che proprio perché azzeriamo, se volete, i tempi e i costi di viaggio, possiamo veramente coprire il territorio in tutti gli angoli anche più remoti, anche perché il mondo retail non si concentra solo nelle grandi città, ma in tutta la nazione. Bene, grazie. Grazie Luca Pagano di Be My Eye. Adesso magari la segnalo anche su Twitter, così chi non fosse riuscito, come dice Enrico, chi non parla l'inglese la trova anche su Twitter. Grazie Luca. Enrico, invece, se non parli in inglese. No, volevo fare una considerazione. fare una considerazione molto importante per inquadrare questo all'interno di uno scenario un po' più ampio. Abbiamo sentito che questa applicazione serve in definitiva per raccogliere dati. Sì. Noi viviamo in un mondo dove esiste la possibilità di raccogliere dati, esistono possibilità sempre più complesse e sofisticate di elaborare questi dati, e la raccolta di dati in qualsiasi ambito diventa sempre più preziosa, sempre più importante, ed è per questo motivo che questa società è stata finanziata con 6,5 milioni di euro, che, ripeto, non è una cifra irrilevante per il territorio italiano, per il mercato italiano, comunque il mercato europeo, e con questo sistema, pagando le persone e sostanzialmente pagandole probabilmente il giusto per chi fa il raccoglitore di informazioni, ma probabilmente per il mercato una cifra molto, molto economica, c'è una marginalità molto, molto interessante, quindi la raccolta di questi dati poi ha un valore molto forte per le aziende che fanno ricerche di mercato. E poi un'opportunità piccola ma per tanti. Enrico, sì, certo. Abbiamo anticipato l'appuntamento con te in questo Sabato il Villaggio, perché adesso vai saluto. A fare il giornale radio. Sì, l'abbiamo già mezzo costruito. L'hai già mezzo costruito. Beh, quindi ci risentiamo alle 16 col giornale radio? A più tardi, ciao ciao. A più tardi Enrico Pagliarini, noi ci troviamo dopo una brevissima pausa. Cuore e Denari presenta un appuntamento speciale dedicato alla salute e al benessere del cuore. Ogni mese un tema abbinato ad un colore. Quello di maggio è il rosso, come la passione, come l'amore. E a proposito d'amore, le pillole dell'amore che accendono la passione possono fare male al cuore? Bella domanda. Tenetevi pronti allora, perché il 30 maggio ne saprete di tutti i colori. Vi aspettiamo con i colori del cuore per parlare di cuore e dintorni. Cuore e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Dal lunedì al venerdì alle 10.30 su Radio 24. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento del nostro gastronauta. Ascoltata la scorsa settimana, lo so, sono monomaniaca con la pizza, abbiamo parlato di pizza la scorsa settimana, però per un evento che si stava tenendo a Napoli. Questa settimana invece parliamo di qualcosa di particolare che riguarda la pizza, poi Pino Daniele ci sta bene sempre, quindi sono sempre contenta di ascoltarlo al Sabato del Villaggio, ma è anche il modo di dare il benvenuto a questo Sabato del Villaggio al nostro gastronauta. Ciao Davide, ciao Davide Paolini. Ciao, ciao, con la pizza in coppa. Si senti, Davide, pizza però, pizza particolare, di cosa parliamo? Eh sì, perché è pizza fritta. Ah. Allora, diciamo che questa è un po' la moda del momento, che sta, la tendenza del momento, che sta veramente emergendo, ma non solo a Napoli c'è sempre stata storicamente, sta prendendo un po' in giro per l'Italia. Però prima di passare a parlare proprio di questa pizza, voglio ricordare, tu che sei appassionata di cinema, voglio portarti all'Oro di Napoli, di Vittorio De Sica, certo. Dove Sofia Loren, la bella del popolo in quel film lì, chiamata Donna Sofia, vendeva pizze fritte in un vicolo storico di Napoli e invitava i passanti a fare a merenda a credito addirittura. Si chiamava Pizza 8, sai perché si chiamava Pizza 8 questa pizza fritta? Perché era, era mangiata oggi e pagata 8 giorni. Quindi veramente questo ti dà l'idea, secondo me, di questa bella Napoli, di questa Napoli con mille fantasie. Però la pizza fritta non è altro che un mix di tre cose molto poco costose: farina, acqua e lievito, quindi è una delle cose più semplici. Un tempo si friggeva in un grosso padellone, oggi dove c'era olio, oggi invece si frigge nelle friggitrici. Però ecco, passiamo anche al dunque, diciamo così. A Milano Gino Sorbillo, che è uno dei maghi della pizza napoletana tradizionale, verace, è considerato un must, ha aperto l'antica pizza fritta da zia Esterina e ha un successo incredibile, perché non ci si può sedere. Eppure mi hanno detto, c'è... io volevo andarci con il nostro Enrico Pagliarini, che abbiamo appena ascoltato, che adesso è tornato a correre in redazione perché si occupa dei giornali radio questo pomeriggio, e mi ha detto dobbiamo andare a provare la pizza fritta, però mi ha detto folle. Sì, è una pizza fritta buonissima ed è, si trova nel triangolo dello street food, io lo chiamo, perché c'è Luini, appunto c'è la pizza fritta, c'è Emanuelina di Recco che fa appunto la focaccia, e quindi è diventata una zona centrale di Milano, dove, se io ho ben individuato, c'era il famoso forno dei Promessi Sposi, e dovrebbe essere proprio dove era Luini, dove è Luini oggi. Quindi si è formato questo triangolo dello street food e c'è questa da zia Esperina che sta avendo un grande successo. Lo ripeto, non ha posti a sedere, questo veramente è incredibile. Ma torniamo a Napoli, perché a Napoli c'è un altro grande della pizza tradizionale che si chiama Enzo Coccia, anche lui ha aperto un locale che si chiama Ospizio da Notizia. Perché Ospizio da Notizia? Perché la sua si chiama Pizzeria Notizia, la notizia, e quindi ha aperto anche questo locale dove si mangia pizza fritta. Quindi i grandi della pizza tradizionale napoletana stanno andando in questa direzione, vuol dire che è un grande momento, quindi di ricettività di questa succulenza, che è, diciamo, una roba semplice, però te ne mangeresti tanta, perché il fritto fa male, lo sappiamo tutti, però piace da morire. Vabbè, il fritto fa male, però con moderazione ce lo possiamo concedere. Sì, io di fronte a un fritto lascio tutto, friggerei anche la frutta. Quindi, sì, tutto è buono fritto. Lo confesso. Però non solo a Napoli, ora ti porto a Firenze, dove c'è una pizzeria che si chiama Pizzeria Sant'Arpia, di Giovanni Sant'Arpia, dove addirittura lui mette il lampredotto, quindi pizza fritta con lampredotto, esattamente, quindi è una innovazione proprio nella tradizione fiorentina. E poi ancora ora ti porto nella mia Romagna, certo. Perché a Galeata, un paesino dove io sono nato, lo confesso, c'è una trattoria che si chiama Carampana, che è veramente una deliziosa trattoria dove si mangiano tutte le specialità romagnole, ma in questo caso fa la piadina fritta, che è praticamente della scuola appunto della piadina, però invece di essere cotta su una lastra, viene appunto fritta anche questa e diventa quindi una piadina fritta anche qui da abbinare alle specialità romagnole. Davide, io direi che adesso è già l'ora del nostro itinerario, anche perché so che ci porti in un luogo che a me piace molto. Ho sentito parlare di Senigallia, io voglio salutare la mia amica Giorgia che è originaria di Senigallia, abbiamo appena passato un sacco di giorni insieme a Stoccolma, ma anche il nostro Cristian Goldoni originario di Senigallia, quindi devi darci tutte le indicazioni utili, certo, perché certo. Ci torniamo, ci andiamo e ci torniamo. Beh, diciamo che Senigallia è diventata una città cult perché ha due ristoranti straordinari, due ristoranti che sono anche così baciati da tutte le guide, ma valgono quello, diciamo, il valore che gli viene riconosciuto. Allora partiamo dalla Madonnina del Pescatore, la Madonnina del Pescatore di Moreno Cedroni. Moreno Cedroni è stato forse uno dei primi, un antesignano dell'innovazione in cucina, perché oltre ad avere la Madonnina del Pescatore, ora ti do un indirizzo che di questo te lo devi segnare, è proprietario, cioè ha inventato il clandestino a Porto Novo, poi parleremo di questo, perché se ci vuoi andare in compagnia in una serata romantica d'estate è il posto credo più giusto in Italia. Ma torniamo alla Madonnina del Pescatore. Alla Madonnina del Pescatore posso segnalare dei piatti interessanti come la lasagna ai frutti di mare in bianco con la salsa di cocco e lime, oppure gli spaghetti con scampi, ma non sono spaghetti con scampi e pomodoro fresco semplice, perché c'è anche lo zenzero e c'è la salsa di cavolo cappuccio, poi ancora si mangiano delle cose tipo insalata al Campari, è ancora il crudo di ricciola, salsa di porro e lemongrass viola con basilico e amaranto fritto, oppure ancora l'ostrica con pannacita, scalogno e caramello al lampone. E visto che diciamo succulente, però io ti porto al clandestino di Porto Novo. Che cos'è il clandestino di Porto Novo? Te lo descrivo. Era un capanno in una spiaggia di sabbia, proprio in mezzo, con di sera lontano una luce di una chiesetta sulla destra, in questa spiaggia dove non c'è nessuno, c'è solamente questo posto illuminato dove si può mangiare, quindi è veramente romantico, ma veramente romantico. Il clandestino è stato il luogo dove Cedroni ha sperimentato il sushi all'italiana, il sushi scritto anche in maniera diversa da come viene scritto proprio per dire italiano. Quest'anno, addirittura nel 2016, qui c'è un menù che si rifà dai piatti che hanno avuto successo già dal 2000, anno in cui era partito con le capasante bruciacchiate con purè di patate emulsionata all'olio extravergine, è un po' il luogo del pesce crudo. Ma torniamo a Senigallia, perché ti devo dare l'altro big, che si chiama Mauro Uliassi, che ha questo ristorante appunto che si chiama Uliassi, che è un po', diciamo proprio sul porto, è proprio sul porto di Senigallia, però è un luogo che non si mangia solo pesce, si mangiano anche cose molto particolari, molto rare. Ad esempio c'è una pietanza che si chiama fosso, ovvero sia rane, erbe e magari si mangiano rane e lumache, ecco. Accidenti. Si mangiano rane e lumache in questo posto, e c'è un piatto particolare che le raccoglie tutte e due, che si chiama appunto il fosso. Però si fanno tantissimi piatti di pesce, ad esempio il piatto straordinario è la triglia fritta con prosciutto e pecorino e fave. Qui c'è un dolce che io adoro, che è la zuppa inglese. La zuppa inglese che non si trova quasi mai più da nessuna parte, e ora è diventata invece tornata alla ribalta. E qui è un gran finale, perché viene servita come, secondo me, si può pensare alle Folies Bergère, cioè diciamo con in luogo della musica c'è l'azoto liquido, quindi che fa fumo, e quindi viene presentata in questa maniera. Se c'è ancora un posticino ti porto anche vicino a Fano, a metà Sì. Origlia di Fano, un po' prima ovviamente di Senigallia, alla Lanterna, dove si mangia un pesce tradizionale, però sempre fresco, e diciamo che il personaggio Flavio Cerioni, che è il proprietario, va ogni mattina al mercato o va a San Benedetto o va a Fano, e dice sempre che alla moglie Elide, che è la cuoca, gli dice sempre: io ti porto pesce fresco, addirittura vivo, solo tu puoi rovinarlo. Quindi ecco questo è un po' il finale. Ecco. Davide, che meraviglia, ci hai portato in luoghi che conosco poco, ma che amo molto, perché davvero sono molto affezionata a alcune persone che vengono da lì. La prossima settimana aspetto ancora altri itinerari e altre tendenze. Ciao Davide Paolini, ciao Gastronauta, alla prossima settimana. Ciao, sabato. Il sabato del villaggio. Adesso parliamo della realtà che irrompe nell'arte, che irrompe nei media, parliamo di TV. La scientifica può procedere. Mori! Avete trovato qualcosa? No, ancora no. Negli ultimi 5 anni sono scomparse più di 30 persone in Sicilia. Ma voi vi rendete conto che De Mauro è diventato il protagonista di una delle sue inchieste? Qualche mese fa lui ha scritto un articolo coraggiosissimo sulla lupara bianca. Alleati, per quello che mi riguarda, De Mauro è ancora vivo. Rai 1, lunedì 23, 24 maggio, martedì, arriva una fiction, Boris Giuliano, un poliziotto a Palermo ispirata alla figura del vicequestore ucciso dalla mafia nel 1979. A interpretare Boris Giuliano è Adriano Giannini, che ci ha definito il ruolo una grande responsabilità. Sì, intanto era la prima volta che interpretavo un personaggio realmente esistito di questo calibro. Poi ho subito incontrato gli uomini della squadra di Giuliano, la famiglia, quindi c'è un impatto diverso rispetto agli altri lavori, perché ci sono stati questi incontri umanamente molto forti. Cosa hai provato e cosa provi pensando alla famiglia che vede sullo schermo reinterpretato il ruolo di Boris Giuliano? Io veramente avevo un senso di pudore nel vederli sul set, quindi insomma noi giochiamo sempre a interpretare dei ruoli, invece hai davanti a te le persone che hanno visto, amato, condiviso veramente con la persona che tu stai interpretando. Però credo che siano estremamente contenti che finalmente questa storia venga conosciuta, divulgata, insomma, a un grande pubblico, e insomma credo che sia commovente. Mi sono commosso io, e di solito non mi accade, specialmente per i film che faccio, rivedendolo, quindi immagino per loro, insomma, credo che sia anche abbastanza duro. Ci sono tante riflessioni in questo periodo, ma non solo, sulla messa in scena nelle fiction televisive della criminalità. Tu come ti poni rispetto a questa riflessione? È un problema questo trattato sin dall'inizio dell'audiovisivo, insomma, è un problema antico che forse non so se ci sia bene una risposta. È vero che il problema forse esiste, va valutato, non va sottovalutato, però da attore per me non cambia molto se devo fare il cattivo o il buono. In questo caso cambia far Boris Giuliano per una serie di motivi che sono quelli che ti ho detto prima, e quindi per gli incontri umani che accadono, però dal punto di vista lavorativo non cambia niente, però il rischio emulazione credo che ci possa essere, non va mai sottovalutato. E ora parliamo di cinema. Beatrice, adorata, lo sai che non possiamo farti uscire. Le ho detto di non toccarmi, ho capito che cerca di farmi la coccola, non mi tocchi. Devi rispettare il patto terapeutico. Se denunciando la scomparsa si aggrava moltissimo la loro posizione. E che dobbiamo aspettare? Che rapiscono il figlio? Che mandino qualcuno? La macchina! Abbiamo anche una macchina! Ci diamo una pezza gioia! E questo è indubbiamente il film della settimana, La pazza gioia di Paolo Virzì, ma non voglio consigliarvelo, sconsigliarvelo io. Chiedo il parere del nostro esperto. Buonasera Franco D'Assisti, ciao Franco. Ciao Marta, andiamo sicuramente a vederlo, penso che il mio consiglio sia come il tuo, perché ho sentito davvero una rara unanimità fino adesso su questo lavoro di Paolo Virzì, che qualcuno chiama capolavoro, e secondo me non va tanto lontano dal vero, perché è una commedia dramma road movie che mischia insieme tutte queste carte e che racconta la storia di due donne con diversa pazzia, diciamola così, una che esplode, l'altra che implode, una che diventa esuberante, Valeria Bruni Tedeschi, straordinaria, secondo me la sua più bella prestazione in carriera, nei panni di questa donna ex altolocata che adesso vorrebbe continuare a sentirsi com'era, ma le cose non stanno più così. Qualcuno l'ha chiamata una vedova bianca del berlusconismo, mi sembra una indicazione azzeccata. Dall'altra parte invece una Micaela Ramazzotti, sempre bravissima, che invece si ranicchia dietro la sua frangia, si nasconde il suo dolore dentro se stessa. Ebbene, queste due unità così diverse si attraggono, come è normale che sia, e danno vita a un film, a un road movie straordinario, a una storia di, come dire, amicizia e fuga. Qualcuno ha scomodato Thelma e Louise, altri Il Sorpasso, insomma c'è anche tanto riferimento cinematografico dentro, ma c'è soprattutto una regia delicata, attenta, rigorosa e insieme anche libera da parte di Paolo Virzì, che ci consegna questo autore come oggi, secondo me, il principale autore della scena italiana per quanto riguarda l'eredità della grande commedia all'italiana degli anni 60. Franco, invece, per chi volesse dei film d'azione, magari con i supereroi, c'è qualcosa questo fine settimana? Ma guarda, c'è questa settimana, e c'è anche di buona qualità, devo dire. Ultimamente i film di supereroi ci avevano un po' lasciato lì, no? E, per esempio, Capitan America ha diviso molto, Civil War l'ultimo. Ebbene, devo dire che X-Men Apocalisse invece a livello qualitativo ha colpito nel segno, è un nuovo capitolo della saga degli X-Men, dove nel 1983, quindi si torna indietro nel tempo, questa squadra di Vendicatori, che è un po' l'alter ego degli Avengers sotto l'altra parrocchia del fumetto, affronta forse il pericolo più importante, più potente di quelli che ha affrontato, appunto Apocalisse, che non è l'Apocalisse ma è una sorta di mostro che arriva da un sepolcro millenario dal quale viene liberato. Cast di attori di altissimo livello: Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender, Oscar Isaac, insomma tutta roba buona di questa ultima generazione, e quindi un film assolutamente da vedere. Ultimo consiglio, bambini: il tempo è bello più o meno dappertutto questo fine settimana, ma la voglia di cinema c'è lo stesso. Dove possiamo portare? Cosa possiamo portare a vedere i bambini? Guarda, c'è una proposta per loro molto molto interessante, molto divertente, che si intitola Mortadello e Polpetta. Questo è il titolo, è abbastanza interessante. Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo Sguercio, sfiora la Bert Müller, insomma, come lunghezza. Titolo originale: Mortadello e Filemon contro Jimmy e il Cacciondo. Ho decisamente scelto il mio titolo per questo fine settimana. Dunque, Franco, l'appuntamento con te dopo il GR delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao Franco. Ci sentiamo. Il sabato del villaggio. Ed eccoci insieme per la seconda ora del nostro sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Se non lo sapeste, questo è il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Ma staremo insieme fino alle 18, perché dalle 17 alle 18 c'è l'appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per i vostri messaggi 349-238-6666, sia gli SMS che i messaggi WhatsApp, non ho fatto in tempo tempo a leggere tutti i vostri messaggi a Davide Paolini, al nostro gastronauta. Li conservo per la prossima settimana. Tra l'altro c'è qualcuno che gli segnala anche degli indirizzi e io ogni volta mi preoccupo e mi procuro di mandarglieli, perché così lui può controllare e magari scoprire qualcosa di nuovo. Ringrazio anche per dei complimenti che mi ha mandato via WhatsApp Ignazio da Napoli, dei complimenti quasi hot, ragazzi. Ignazio, non ve li posso leggere, grazie Ignazio, troppo. Potete anche scrivermi su Twitter @MartaCagnola e il mio account cancelletto ISDV, come l'iniziale del Sabato del Villaggio, è l'hashtag. Ora scopriamo i temi della seconda ora. Il filo conduttore è sempre quando la realtà irrompe nell'arte. Abbiamo parlato di televisione, abbiamo parlato di cinema. Torneremo a occuparci più tardi di Eurovision. Il festival europeo l'abbiamo seguito da Stoccolma la scorsa settimana perché ne hanno parlato tutti i giornali. In questa settimana, ma noi ve l'avevamo un po' anticipato, ci sono delle tensioni internazionali semplicemente per la vittoria di una canzone. Poi ancora tutti i libri del momento nello spazio di Alessandra Tedesco, nel nostro appuntamento con Maria Luisa Pezzali il modellismo, ma come sempre anche le scoperte di Cristina Lazzati, ma partiamo subito parlando di teatro. Figlio di un mercante di bestiame, ebreo circonciso, con una sola valigia al fianco, fermo, immobile, come un palo del telegrafo, sul molo number 4 del porto di New York. Mi fa piacere tornare Grazie a parlare, dopo un po' di tempo, di Le Man Trilogy. Tornerà al Piccolo Teatro di Milano, quest'opera che ha visto nascere, che il teatro che ha visto nascere quest'opera insieme a Luca Ronconi, un'opera davvero importante che noi abbiamo seguito proprio dall'inizio, dal suo esordio. Torna al Piccolo, che ha presentato la prossima stagione. Una stagione importante perché la stagione 2016-2017 è la numero 70. Il Piccolo Teatro venne fondato da Strehler e Grassi nel 1947. Ma cosa dobbiamo aspettarci per la prossima stagione? Alessandra Tedesco lo ha chiesto al direttore Sergio Escobar. Tanta drammaturgia contemporanea che però è trattata come se fosse un classico, in termini molto pratici, con lunghissime tenniture. Pensate che torna Le Man Trilogy con 120 repliche. Normalmente queste sono associate a titoli goldoniani o shakespeariani. Possiamo aspettarci una nuova produzione curata da Tony Servillo, il cui titolo è Elvira da Jouvet. Possiamo aspettarci un Pinocchio di Antonio Natella, possiamo aspettarci Bestie di palcoscenico di Emma Dante, possiamo aspettarci Louise e René da un testo di Balzac con la drammaturgia di Stefano Massini, con la regia di Sonia Bergamasco, possiamo aspettarci 500 repliche di produzione e possiamo aspettarci 250 recite di 23 spettacoli ospitati. La maggior parte sono compagnie private piccole, ma non perché sia politicamente corretto, cosa odiosa, ma perché teatralmente interessanti. Molti testi contemporanei, insomma. Anche il teatro in questo senso sta cambiando, non sono più solo classici, ma si sta veramente al passo coi tempi, aiuta a interpretare la realtà. Il teatro non sta cambiando, è la realtà che sta cambiando e sta evolvendosi. Il teatro ovviamente non è la cronaca quotidiana, quella la fate e benissimo voi, è materia su cui poi si costruisce anche l'interpretazione della realtà. È che si sente sempre di più la necessità di battere la solitudine della moltitudine delle informazioni, non facendo un club chiuso, ma semplicemente ridando il valore pensato, pesato, recitato, vissuto della parola. Tante volte può capitare che state seduti a un tavolo, state facendo un fatto di cose, sentite alle vostre spalle una porta che sarà. Chi è? Chi è? Avanti, chi è la porta? Avanti! Da nessuno, pure dalla porta, guardate da destra, guardate da sinistra, ma chi ha avuto questa porta? Ma come sta porta, come si ha avuto essa sola? Allora di nuovo sopraggiunge la giustifica coscienza, proprio quella, la porta si è aperta da sola, una porta sarà aperta da sola, è stato un morto che ha avuto la porta, ma guardate, ma ha sfottuto, si è fatta una rosata ed è sparito, sono esistenti, sono sottili, Non se non hanno, si pizzano dappertutto, sotto la città, sotto i tappeti, sotto i seggi, nelle maniche delle giacche. Voi provate a infilarvi la giacca, ostacoli in movimento, o morte se volate di la manica, la giacca. Durate fatica a infilarvi la giacca, la cosa vi innervosisce, perché là sono sottili, sono insistenti, quindi si ficcano nei mobili, nelle cravatte, la mattina voi state facendo la cravatta, no? Dice, ma com'è? La mattina non sullo specchio, un gesto, un movimento. E non mi dice questa cravatta stamattina, la cravatta non mi arriva a fare, è un morto che si è infilato dentro al nodo della cravatta, non proprio il capo sotto, il capo coppo, il nodo che non può fare, la cravatta non va a potete fare, la cravatta stamattina non va a fare, la cravatta non va a potete fare, ecco perché non possiamo dormire la notte. Beh, incredibile. Questo era un Tony Servillo, in realtà dell'anno scorso, al piccolo Le voci di dentro di Edoardo De Filippo. Quest'anno, lo abbiamo sentito poco fa da Sergio Escobar, Servillo ha una nuova produzione, Elvira. Così l'ha presentata, c'era per noi Adriano Palazzolo. Elvira è il titolo che noi abbiamo dato al testo originale che si intitola Elvire Jouvet 40. Ed è basato su 7 lezioni che Louis Jouvet tenne al Conservatoire a Parigi nel 1940 sul monologo di Elvira nel quarto atto del Don Giovanni di Molière. Brevemente direi che è un testo che offre un'occasione che va al di là del teatro, perché ci mette, naturalmente nel caso di Jouvet, in condizione di ammirare il talento. Ammirare il talento riconoscendo in questa ammirazione una distanza tra noi e il talento, in un'epoca in cui si mette come esempio, in molte circostanze, una mediocrità che sentiamo così vicina e che è orrendamente consolatoria. Beh, incredibile questa spiegazione di Tony Servillo, anche lui al piccolo quest'anno con questa Elvira. Mi è piaciuto molto poter parlare del calendario del piccolo, del cartellone della prossima stagione, la realtà che irrompe anche nel teatro, il tema conduttore di questo sabato del villaggio di oggi. Stiamo ancora insieme perché adesso abbiamo una brevissima pausa, ma poi avremo tutti i nostri appuntamenti con i libri, con i consumi e poi un ultimo blocco, ve l'ho detto, parleremo di Eurovision e di tutto quello che è successo in questa settimana, perché ci sono davvero un sacco di notizie che riguardano questo festival che abbiamo seguito nelle scorse puntate del Sabato del Villaggio. Adesso però sono le 16:15 in punto, quindi una breve pausa per il traffico e poi saremo ancora insieme. Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio adesso è il momento di parlare di libri. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Beh, un po' di Frank Sinatra ci sta sempre bene. Quando Alessandra Tedesco mi ha detto parliamo di caffè, un Frank Sinatra. Come che... sei chic, Marta. Ma sai che a me piace sempre tanto Frank Sinatra. Sì, io lo trovo rilassante, molto... piace, anche romantico, quando poi era così bello. Alessandra, buongiorno. Parliamo di libri, non parliamo di musica. Sì, ma vedete, mi tocca parlare di caffè quando io non lo bevo. Io è bevo vero tè. Che tu ti fai sempre il tazzone di tè? Io sempre il tè. Infatti c'è un libro che si chiama Il tè è sempre una soluzione, di uno scrittore sudafricano, Alexander McCall Smith, qualcosa del genere, adesso ho un vuoto di memoria, e quella è la mia copertina preferita, diciamo. Ma invece il mio manifesto è non c'è niente che due gocce di champagne non possano curare. Vabbè, ma è allora. Ma quella è un'altra storia, la racconteremo un'altra volta, come diceva la storia infinita. Torniamo al caffè invece, Alessandra, perché? Parliamo di caffè perché uno dei libri di cui si sta parlando parecchio nelle ultime settimane si intitola Caffè amaro, l'ha scritto Simonetta Agnello Orbi, pubblicato da Feltrinelli. Simonetta Agnello Orbi, sicilianissima, però vive da tantissimi anni a Londra, dove è avvocato, spesso difende i diritti delle donne, eccetera. E ha la capacità di scrivere dei romanzi veramente molto, molto forti, che ti coinvolgono veramente nella storia. Anche questo romanzo è ambientato in Sicilia, nella Sicilia, diciamo, dell'epoca del fascismo, va dai primi del Novecento fino al secondo dopoguerra. Ed è una storia d'amore, Marta. Ah, quindi già la consigliamo a chi vuole leggere una storia d'amore in questo inizio primavera, così frizzantino. Sì, però non è una storia d'amore, sai, di quelle mielose, per niente, perché chi conosce Simonetta Agnello Orbi sa che lei è anche un po' aspra, dura come donna. È una storia d'amore bella tosta. Allora, c'è questa Maria, questa ragazzina che vive in provincia d'Agrigento, a 15 anni, viene adocchiata, mettiamola così, dal signorotto del paese, Pietro, con il quale, insomma, viene combinato un matrimonio. Lei non è di famiglia molto agiata, insomma i soliti matrimoni combinati, però non è un matrimonio sfortunato, anzi lei attraverso Pietro scopre proprio la sensualità, l'erotismo. Questo è un romanzo pieno di erotismo, come spesso succede alle scrittrici siciliane. Adesso mi viene in mente anche Giuseppina Torregrossa, Simonetta Agnello Orbi, fanno sempre questi romanzi in cui la sensualità è molto forte. Solo che un bel giorno Maria scopre che il marito ha una serie di fototessera, proprio, cioè, hai capito, seriali di donne con cui l'ha tradita. No, cioè, allora, ha avuto anche, non è che voglio spoilerare tutto il libro, però no, e allora qui c'è una bellissima figura femminile, che è quella della mamma di Maria. Maria va dalla mamma e dice: mamma, ho scoperto che Pietro mi ha tradito, cosa faccio? E la mamma cosa le dice? Cornificalo anche tu e cerca di capire. Dai, mi piace, vedo anche Valeria in regia che esulta, lo vogliamo leggere. Cerca di capire qual è la tua vera strada. Quindi per l'epoca era una figura femminile assolutamente controcorrente, non laviamo i panni sporchi in casa, ma vai e vivi la tua vita. E lei così scopre di essere innamorata in realtà di un uomo con il quale era cresciuta, come se fossero fratelli, in realtà era figlio di un'altra famiglia, eccetera. E diciamo, in tutto questo romanzo c'è questo inseguirsi fra Maria e Josué, bisogna vedere. Io non vi dico poi se va, come va a finire. No, possiamo svelare, però mi sembra già bello intenso. No, è intenso. Poi posso dire una cosa, Simonetta Agnello Orbi è una scrittrice tosta, cioè poi a conoscerla, quando la vedete ai festival letterari, sembra anche dura, aspra quando parla, però quando scrive d'amore lo fa in modo così nitido, netto e bello, che veramente piace a uomini e donne. Perfetto, quindi lo consigliamo, più trasversale sì. di quello che magari uno sì, si può sì, immaginare. Sì, sì, sì, assolutamente. Vedo che è un libro davanti a te dalla copertina che mi piace molto, sembrerebbe un libro d'amore anche quello, vedo una silhouette di un uomo, una donna. Allora, è un libro d'amore, ma è il libro che ha creato più polemiche internazionali nelle ultime settimane. Ah beh, tra poco parleremo anche delle polemiche internazionali dell'Eurovision, quindi ancora una volta la realtà che irrompe la nell'arte. Realtà che il nostro nell'arte. Filo conduttore di questo Sabato il Villaggio, salvo anche nei libri. Allora, il libro si intitola Border Life, l'ha scritto la scrittrice israeliana Dorit Rabinian ed è tradotto in italiano dall'ebraico niente poco di meno che Elena Lowenthal, a sua volta scrittrice, quindi garanzia veramente di qualità. Questo libro, pubblicato da Longanesi, racconta semplicemente una storia ambientata a New York. C'è una ragazza israeliana che sta a New York con una borsa di studio, si innamora di un ragazzo palestinese, che fa l'artista, che era stato incarcerato in Israele anni prima perché disegnava la bandiera palestinese per le strade. Loro vivono questa storia d'amore come in una bolla spazio-temporale, no? Perché sono lontani dai loro paesi d'origine, che chiaramente lo sappiamo sono in guerra, quindi vivono in questa New York sospesa nel tempo e nello spazio, sanno che è una storia a tempo, che prima o poi finirà, però la vivono con una grande intensità. Ora tu mi dirai perché? Ma appunto finora cioè, mi pare che non ci sia niente di straordinario, cioè, sì. Ci sono tante altre storie raccontate così. Qual è stato il caso internazionale che si è scatenato intorno a questo romanzo Border Life? Cosa è successo? Che questo romanzo era stato inserito, diciamo, nella lista fra i romanzi da consigliare ai ragazzi, diciamo, del liceo, così per intenderci, delle scuole superiori israeliane, ma il ministro della cultura israeliana ha detto: giammai, cancelliamo subito questo libro dalla lista dei libri consigliati, perché favorirebbe i matrimoni fra palestinesi e israeliani. Ah, certo, allora a questo certo. punto si è creato un putiferio. Scrittori israeliani come Amos Oz e Abraham Yoshua sono scesi in campo proprio difendendo a spada tratta il libro e la scrittrice. Amos Oz ha detto: questa è una magnifica storia d'amore che la tragedia di due popoli non riesce a sopraffare. E allora, quando ho incontrato la scrittrice Dorit Rabinian, le ho proprio chiesto di spiegarmi come mai una storia che apparentemente, insomma, sembra già proposta in altri romanzi, ha creato tutto questo putiferio. Allora sentiamo la scrittrice nella traduzione di Sara Cuminetti. The two novels that had an element of a mixed couples. Sono due i romanzi che sono presenti appunto in questo elenco di romanzi che vengono consigliati ai ragazzi delle scuole che parlano di matrimoni misti, ma uno data dagli anni 70 e l'altro degli anni 80. Il mio era evidentemente troppo attuale, troppo contemporaneo, toccava corde troppo moderne, diciamo, anche se devo dire che questa decisione alla fine per me è un grande complimento come scrittrice, perché significa che sono riuscita a descrivere questo amore come qualcosa di veramente efficace, di veramente affascinante. Se qualcuno al Ministero dell'Istruzione, leggendo il mio libro, ha ritenuto che fosse, ha vissuto questa emozione in maniera così profonda da ritenere che potessero essere pericolose, insomma, beh, questo significa che sono stata brava nel mio lavoro di scrittrice, perché se qualcuno è riuscito a identificarsi con i sentimenti, con la trama di questo libro, al punto tale da preoccuparsi che questo realismo potesse diventare minaccioso, insomma, per la società, beh, sicuramente come scrittrice ne sono molto contenta, anche perché questo fa parte della magia, no, della letteratura, e quando ne diventa fondamentale riuscire a identificarsi con quello che la letteratura propone, se ci sono riuscita, tanto meglio, no? You wouldn't find it to be fundamental. Alessandra Chilo, consigliamo questo Border Life? E allora sai che ti dico, io lo consiglio proprio ai ragazzi delle scuole superiori, così giusto, certo, per andare controcorrente rispetto al ministro dell'istruzione, io ho detto prima, della cultura israeliano. Lo consiglio a tutti, diciamo, gli adolescenti dai 16 anni in su, anche agli adulti, a chi vuole leggere una storia d'amore che veramente supera i confini stupidi e banali che a volte vengono fatti dalle persone, anzi dai politici. Abbiamo ancora tempo per un consiglio, per un libro, ancora magari la realtà che irrompe. Guarda, mai come in questo momento la realtà che irrompe veramente, in questo caso nella letteratura, nei libri. Un libro, ti dico prima chi lo consiglio, io lo consiglio a tutti, l'ho definito un libro indispensabile in un'altra occasione, si intitola Non avrete il mio odio, l'ha scritto il giornalista francese Antoine Leyry, pubblicato in Italia da Corbaccio. È un piccolo libro, non sono neanche 100 pagine, forse ricorderete l'episodio. Questo giornalista aveva perso la moglie durante l'attentato a Parigi, alla Bataclan, dove si svolgeva il concerto, certo, il 13 novembre certo. scorso. Lui era rimasto a casa con il figlio di soli 17 mesi, la moglie era andata a questo concerto, lui ha perso la moglie e aveva scritto qualche giorno dopo su Facebook una lettera che aveva proprio intitolato Non avrete il mio odio, riferito ai terroristi dell'ISIS. Ora, il libro chiaramente non è letterario, è proprio vita vera, è vita vera, è vita vissuta, sono i 12 giorni dalla morte della moglie in poi che quest'uomo, perché in fondo appunto è un uomo, non è né un giornalista né un intellettuale, è un uomo che si trova a vivere con suo figlio di 17 mesi. Ci sono delle parti molto commoventi dove lui dice, per esempio, il mio bambino Melville conosceva solo tre parole: mamma, papà, ciuccio. Io dovevo fargli capire che la mamma non c'era più. E quindi doveva far intuire a un bambino così piccolo una roba del genere. Ma soprattutto la cosa più bella di questo libro è il nocciolo profondo. Cioè lui dice, Antoine Leyry, non avrete il mio odio, si riferisce ai terroristi, ma io non vi perdono. Quindi è una cosa molto diversa. Dice, io non mi farò rovinare la mia vita, la vita di mio figlio, odiandovi, perché così toglierei energie alla nostra vita, ma questo non vuol dire che vi perdono. È una differenza sottile, però secondo me molto molto importante, per questo lo consiglio un po' a tutti, dai 16 ai 17 anni in su, poi naturalmente dipende dalla sensibilità delle persone, per capire come si possa andare avanti nella vita nonostante un lutto così grave e come si riesca a non farsi proprio sconfiggere dall'odio, perché quest'uomo si rende conto che l'odio rovinerebbe tutta la sua vita e quella di suo figlio. È incredibile, non ho altre parole per, no, questo, per questo libro, non avrete il mio odio, tosto, bisogna essere pronti per leggerlo. Sì, bisogna essere pronti per leggerlo, è commovente, però ti dico che è una scrittura molto pulita, non va a cercare la lacrima facile, no, è chiaro, le lacrime possono spuntare soprattutto a chi è genitore, però è un libro fondamentale secondo me. Alessandra, ultimo consiglio, Cacciatore di libri. Cacciatore di libri ogni sabato alle 6:30 del mattino, alle 22 in replica e come sempre il podcast su radio24.it. Grazie Alessandra. Baci. Il sabato del villaggio. Ci avviamo verso la conclusione della prima parte del Sabato del Villaggio, perché poi tra mezz'ora sarà il momento di RadioTube. I nostri numeri per contattarci 349-238-6666. Va bene sia per i vostri SMS che per i vostri WhatsApp, non mandatemi messaggi vocali perché sono qua da sola in studio, non li posso ascoltare mentre sono in diretta. Quindi multitasking va bene, ma non fino a questo punto. E invece Twitter ce l'ho sempre davanti, Marta Cagnola, mi trovate in qualsiasi momento. Abbiamo ancora due pagine da aprire nel nostro sabato. Insomma, ve l'ho detto, il nostro filo conduttore è quando la realtà irrompe nell'arte, nella cultura, nello spettacolo. E tra circa un quarto d'ora torneremo su questo tema. Adesso però sono le 16:32 minuti ed è il momento di dedicarci ai consumi. Old toy trains, little toy tracks, little boy toys come from the sack, carried by men dressed in white. Little boy, don't you think it's time you were in bed? Little toy trains, i trenini giocattolo sono una grande passione. Io ho pensato subito ai trenini giocattolo quando Maria Luisa Pezzali mi ha detto parliamo di modellismo. Non so se c'entrano qualcosa. Buongiorno Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Beh sì che c'entrano, il modellismo, insomma, quando citiamo il modellismo ci vengono subito in mente i trenini e i soldatini. Sono le due cose che vengono in mente. Ero indecisa tra questa e Toy Soldier, che erano le due canzoni che avevo in mente. Sì. Tra l'altro non so tu Marta, ma ognuno di noi credo abbia un amico appassionato, patito di modellismo. Ciao Guido. Questo sì, è il mio. Amici che lo erano da piccoli o che da piccoli non potevano e poi si sono dati alla pazza gioia da grandi. Eh beh, è un fenomeno nei consumi che da hobby un po' vintage, diciamo così, sta diventando in realtà una passione 2.0, come è successo ad altre cose. Non so Marta, mi viene in mente la maglia, il knitting. Ah certo, io da appassionata di punto croce che mi scarico gli schemi di punto croce dall'America. Vedi? Che prima era impensabile. Esatto, e comunque un settore di tutto rispetto, muove un giro d'affari da 25 milioni di euro, conta più di 1000 punti vendita specializzati sul territorio nazionale, coinvolge un numero consistente di appassionati di tutte le età. Lo spunto per parlarne oggi, Marta, è Model Expo Italy, la manifestazione numero uno in Italia dedicata agli appassionati del modellismo, che si tiene a Verona oggi e domani, dunque si è aperta proprio oggi. Ci facciamo raccontare tutto da Elena Amadini di Verona Fiere. Buon pomeriggio Elena. Buon pomeriggio a tutti voi e agli ascoltatori. Buon pomeriggio Elena. Allora, trenini e soldatini, ma non solo. No, infatti, trenini e soldatini, però come dicevate voi giustamente, è la prima immagine che evoca il termine modellismo. Oggi c'è di più perché comunque si è evoluto, però c'è una costante che mi piace sottolineare, e cioè che questa nostra manifestazione è una manifestazione dedicata alla componente di gioco che ognuno di noi ha dentro. Comincia da bambini e si gioca con tutto, poi si diventa adulti e si sceglie invece con cosa giocare e come giocare, e quindi si dà una propria connotazione al gioco. qui c'è tutto. C'è naturalmente il modellismo tradizionale, quindi ci sono i soldatini, quindi ci sono i trenini, tutte queste cose che finiscono in ini e che ci riportano un po' a questa atmosfera vintage. Però nello stesso tempo, ovviamente, i tempi sono cambiati, c'è la tecnologia, c'è un approccio diverso, soprattutto delle giovani generazioni, al gioco, che inizia subito con i videogiochi e quindi con una prossimità con la tecnologia, il mondo del web, eccetera, e quindi anche il modellismo recepisce e si modifica. E quindi noi rappresentiamo in questa manifestazione questa passione, questa curiosità, questo modo di vivere la propria esperienza di gioco in tante modalità diverse. Io penso che sia una bella occasione per chi colleziona, ma io ho curiosato un po' anche per chi non fa il collezionista ma vuole vedere qualcosa di bello, anche di spettacolare, mi pare di capire. Sì, c'è tantissimo spettacolo, perché poi queste persone lasciate libere, me lo lasci non dire, hanno confini. Senza confini, anche di spazio, perché questa è una manifestazione che occupa 7 padiglioni, le aree esterne, quindi è veramente ampia e quindi riesce a dare soddisfazione a tutto. Noi abbiamo una vasca che è la più grande all'inchiuso dentro un padiglione, quindi la più grande indoor in Europa, che sono 600 metri quadrati, e dentro ci fanno le battaglie navali e ci sono i ventilatori per simulare le onde, e c'è la musica, le luci, è veramente bello. Quindi la spettacolarità non solo nel navale è assolutamente garantita. Adesso quest'anno è esposto, ed è semplicemente meraviglioso, un plastico di 150 metri quadrati, quindi voglio dire, una casa, già un bel appartamento, ovvero 150 metri quadrati, sì, su una battaglia storica della guerra dei 30 anni con 12.000 soldatini, e questi sono fatti tutti a mano e dipinti, e quindi c'è una tale passione, un tale lavoro, anche la ricerca storica, una ricerca del gusto, che sono veramente delle cose bellissime. Perché poi il modellismo, quello classico forse direi più che non quello moderno, è anche un modo per rivivere e reinterpretare la storia, e questo secondo me è una componente molto bella, molto, molto interessante. Ma c'è un profilo tipo dell'appassionato di modellismo? Allora, io mi devo estraniare da me, perché io ho un fratello modellista. Ah, di cosa? Di cosa? E lui è un modellista tradizionale di treni. Ah, ecco, ci siamo. Allora. Infatti lui non vive neanche qui a Verona, vive in Toscana. Io lo vedo una volta l'anno, cioè durante Model Expo. Ma che caso strano. Che caso, vero? Si fa vivo. E quindi no, diciamo che è, rispetto al modellismo classico, è un uomo principalmente, più che non una donna. È tra i 40 e i 50 anni e il più delle volte comunque ha una professione di tipo tecnico, quindi sono persone che o ingegneri o architetti, perché comunque hanno a che fare con una manualità e anche con una capacità progettuale, perché il vero modellista progetta anche le cose che fa, cioè l'acquisto della scatola di montaggio è il primo step, poi dopo diventano ovviamente sempre più esigenti, sempre più perfezionisti, è una concezione del tempo che si dilata all'infinito, perché si rincorre la perfezione del particolare. Poi naturalmente tutto questo, quando lo vedi montato, costruito, ti lascia veramente a bocca aperta. Ed è una passione che, ce lo confermi se è così, nelle famiglie spesso passa di padre in figlio? Sì, passa di padre in figlio, però in una maniera un po' particolare, perché il figlio spesso, il papà non gli fa toccare niente. Bello, mi piace. Poi tra l'altro vedo che ci sono cosplay, cartoni animati, sì, sigle di cartoni animati, sono quelle cose che piacciono molto agli ascoltatori, un po' nerd, che spesso ci mandano messaggi durante il sabato del villaggio. Io li adoro. E nerd, quindi, quanto basta. Nerd quanto basta, orgoglio nerd, siamo molto felici. Che meraviglia, arriviamo, Verona Fiere, oggi e domani, 12esimo Model Expo Italy, grazie a Elena Madini, grazie a Elena. Grazie a voi. Allora Maria Luisa, invece adesso è il momento di andare a sentire quali chicche ha scovato la nostra Cristina Lazzati, ci proviamo a collegare, vediamo se ce l'abbiamo, ciao Cristina. Ciao qui. Ciao a tutti, ce l'abbiamo, buon pomeriggio. Ce l'abbiamo. Allora Cristina, qualche chicca, qualche scoperta, quali sono le scoperte della settimana di Cristina Lazzati? Guarda, in questo caso le ho rubate a Diletta Serini, che è una semiologa degli squadrati, che proprio sul prossimo numero di Markup mi ha scritto un pezzo che ho trovato interessantissimo, se non altro perché mette insieme tutta una serie di cose che noi sappiamo ma di cui non ce l'avevamo resi conto. Mm-hmm. E ha tracciato questo profilo dell'entertainer. Chi è l'entertainer? È lo stare a casa in un altro modo. Vi ricordate non tanti anni fa, no? Mi diceva, stasera stiamo a casa, chissà cosa c'è alla televisione, qua, oddio, vabbè leggerò un libro, eccetera. Bene, adesso uno decide di stare a casa perché è la nuova moda, tra l'altro una moda non solo italiana ma assolutamente trasversale, persino il New York Times gli ha dedicato un articolo che stay in is the new stay out, che effettivamente se ci pensiamo, allora, tanto per incominciare, non dobbiamo più fare i conti, non me ne vogliono quelli della televisione, con la programmazione televisiva, perché c'è Netflix, quindi uno si sceglie quello che gli pare, la serie televisiva, vedersi 12 puntate tutte di fila, farsi del male fino alle 3 del mattino, può benissimo farlo. Dopodiché vuoi mangiare, c'è bisogno di uscire al ristorante, devi fare la spesa, ma no, c'è Desiderù, c'è Fodigno, c'è Justy, hai voglia di cucinare ma non vuoi fare la spesa ad hoc per quella ricetta, e a quel punto c'è Cuomi, c'è Fancit, e anche lì basta collegarsi tranquillamente al proprio computer e ci si fa arrivare a casa la tua scatola con tutti i prodotti già misurati, pesati e quant'altro per cucinare. Ma se voglio andare a un concerto come faccio? No, c'è Guestar. Quindi con Guestar, anche lì, un sito che ti organizza dei concerti a casa tua. Certo, è gratuito, però devi anche convincere il cantante o la band che vale la pena venire a casa tua. Per cui in qualche maniera, cioè, devi anche organizzare delle cose, però a questo punto oppure puoi andare tu a casa di altri che magari non conosci, ma passare una serata a casa sentendo un concerto, facendo una grigliata, eccetera, eccetera. Poi tra l'altro, guardato, non è che sia necessario avere il villone con piscina, non è quella la questione è avere una proposta carina che piaccia all'artista che tu vuoi invitare a venire da te. I concerti non vanno bene, troppo macello, c'è teatro per casa, quindi se vogliamo fare gli acculturati, c'è adesso un'associazione che italiana, anche lì c'è un sito, è proprio teatro con la X al posto del per casa, che vengono anche lì a organizzarti uno spettacolo direttamente a casa. Cosa devi fare? Vai sul sito, puoi scegliere appunto se vuoi fare semplicemente vedere lo spettacolo, puoi decidere, puoi iscriverti e dopodiché ti manderanno l'indirizzo per andare a casa di qualcuno che ha organizzato questa cosa. Se invece lo vuoi portare a casa tua, puoi dare la disponibilità. Ho guardato un po' sul sito, tra l'altro ci sono delle cose molto carine, spesso sono dei monologhi, quindi fondamentalmente basta una sedia, quindi tutto abbastanza semplice. Puoi organizzare il festone con Boiler Room, puoi prendere un DJ set in streaming che sta in quel momento facendo una festa a Berlino, a New York, quindi puoi avere un grandissimo DJ semplicemente con una diretta streaming. Beh, questo mi piace molto, anche perché poi io so già che qualche ascoltatore adesso sta già scrivendo il messaggio, non mi è ancora arrivato ma mi arriveranno, ma no, uscite di casa, non dovete stare chiusi. Vabbè, però a parte il fatto che a me il sabato sera dopo 3 ore di diretta piace anche un po' stare in casa, ma si possono ospitare anche gli amici, quindi sono delle belle occasioni anche per organizzare qualcosa a casa ma anche con gli amici. Il DJ set mi piace molto, Cristina. Ma guarda, tra l'altro poi non è un nuovo tipo di socialità, perché se pensi, non so, ad Airbnb non è che lo fai, si puoi farlo anche a casa tua, nel senso di mettere a disposizione e affittare camere, eccetera, però anche viaggiare, andando a casa di qualcun altro, o attraverso Gnammo, facendo il social eating, andare a mangiare a casa di qualcun altro. Questa nuova socialità più diffusa e più sharing, la trovo molto bella e assolutamente, come dire, poco egoistica, ecco. Cristina, grazie per essere stata con noi anche questo sabato, ti aspettiamo al prossimo sempre con le tue chicche, le nostre scoperte di Cristina Lazzati. Grazie Cristina, al prossimo sabato. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Maria Luisa, invece, l'ultimo consiglio è quello di essere a Vere domani sera? Domani alle 22 siamo assolutamente sul pezzo, parleremo di iperconnessione e digital detox. Ci siamo, l'equilibrio. Ci siamo. A domani sera. Ciao a tutti. Il sabato del villaggio. E ringrazio anche Roberto che mi ha mandato dei complimenti dicendo leggi anche questo su Twitter. Certo, grazie Roberto per il tuo tweet che mi è arrivato in questo momento a chiocciola Marta Cagnola. Adesso ve l'ho anticipato, torniamo a parlare di Eurovision, ecco qua. strangers are coming. They come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Jamala, la canzone 1944 ed è la canzone che ha vinto lo Eurovision Song Contest. La settimana scorsa eravamo a Stoccolma, vi abbiamo raccontato l'attesa della finale, l'avevamo data tra i favoriti, l'Ucraina, e così è andata, l'Ucraina ha vinto lo Eurovision Song Contest. Torniamo a collegarci con il nostro super esperto che era un membro della delegazione italiana a Stoccolma, Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Marta, ciao le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio 24. Sì, l'Eurovision ha avuto un vincitore, non si può dire a sorpresa perché era nel gruppo di testa, però nessuno si sarebbe aspettato che questa canzone così anticommerciale, tant'è vero che per la prima volta in 15 anni la vincitrice dell'Eurovision è entrata nelle top 40 di vendita di nessun paese, e potesse vincere. Diciamo che avevamo dato Australia, Ucraina e Russia tra le tre favorite, e così è andata, È stata una gara a tre. L'Ucraina non si è affermata né al televoto né alla giuria, d'altra parte neanche nella sua selezione nazionale aveva vinto il televoto né alla giuria, però grazie alla divisione dei giurati e dei televotanti alla fine era col suo secondo posto sia nel pannello dei professionisti sia per verso il pubblico, e sarà la canzone che ha raccolto su di sé il massimo del consenso. Allora Eddie, devo chiederti subito, perché anche quelli che non hanno seguito la Eurovision, ma devo dire che sta davvero diventando sempre più popolare anche sui giornali, hanno sentito parlare questa settimana di tensioni Russia-Ucraina. Allora, purtroppo sappiamo bene quali sono le tensioni dal punto di vista geopolitico. Questa canzone è stata un po' il pomo della discordia, e questa settimana è successo un po' di tutto. Se ne sono occupate le pagine degli esteri e non quelle di spettacoli, per essere, insomma, per chiudere il cerchio. Facciamo un passo indietro. La canzone si chiama 1944 e parla, è ispirata alla deportazione del popolo tataro dalla Crimea verso le regioni interne dell'Asia centrale, pure parte dell'Unione Sovietica. Successe proprio nel 1944. Dopo la fine dello stalinismo, a tutte le altre popolazioni che erano state riallocate durante lo stalinismo, la politica demografica dell'Unione Sovietica di Stalin, quella di spostare interi gruppi nazionali, vennero appunto riammesse nel territorio d'origine, i tatari no. Dovettero aspettare gli anni 80 per ritornare a casa. Qual era stata la colpa dei tatari? I russi dicono avere aiutato l'invasore, la Wehrmacht, l'esercito nazista che pochi anni prima aveva occupato l'Unione Sovietica con una guerra, dico io, per fortuna persa. Cosa è successo però? Che la Russia ha annesso l'Ucraina, la Crimea, non più che parte dell'Ucraina, non più di 2 anni fa. Quindi c'è chi dice, come Manzoni, che parla di spagnoli volendo significare gli austriaci, e ambienta i suoi promessi sposi nel 600, volendo parlare in realtà di 800, forse questo 1944 dovrebbe leggersi 2014. Ecco. Quindi a questo punto l'Ucraina ha vinto con questa canzone così controversa. L'Ucraina l'anno prossimo dovrebbe ospitare il prossimo Eurovision. Che succede? Beh, sicuramente in questa settimana Jonas Lassand, che è il supervisore esecutivo dell'Eurovision, si è recato a Kiev per parlare con i vertici della televisione di Stato e di alcune città, che come Odessa, la stessa Kiev, credo che sia anche Dnipropetrovsk o Leopoli abbiano avanzato la candidatura. Però bisogna sciogliere il nodo a monte. Può un paese in guerra ospitare l'Eurovision? Alcuni parlamentari di destra ucraini hanno detto, noi ci riserviamo il diritto di dire quali cantanti possono entrare e quali no. Ecco, sì, cantanti... anche perché poi tecnicamente da capire se è un paese in stato di guerra oppure no è proprio una questione ormai geopolitica rilevante. È una questione geopolitica rilevante. Io devo dire che questo dirottarsi sulla geopolitica mi dispiace, cioè, avrei preferito un vincitore meno controverso come l'Australia, sarebbe stata la domanda, ma l'Australia perché non è in Europa? Tutti lo chiedevano, ma perché l'Australia concorre all'Eurovision? Una controversia all'acqua di rosa confronto a questo. Esatto, ma... esatto, cioè, problema secondario. Abbiamo un grande problema di comunicazione con i russi e la cosa che mi dispiace di più è che a perdere e a essere insomma assimilati alle politiche magari non condivise del proprio governo sono quei tanti russi che partecipano all'Eurovision e partecipando ne condividono lo spirito e che vengono bocciati perché sventano la bandiera di uno Stato di cui non sono di da politiche. Beh, insomma, noi non siamo arrivati secondi con Gualazzi perché l'Europa apprezzava il nostro governo di un senso, non siamo arrivati terzi col volo perché l'Europa apprezzava o disprezzava il nostro nuovo governo. Certo, quindi, era solo una questione musicale, certo. Assolutamente. La Russia ha presentato un pezzo, devo dire, non particolarmente nuovo, non particolarmente un po' datato e quindi il fatto di essere dato tra i favoriti dagli scommettitori ha portato i giurati a essere particolarmente severi. Ti chiedo lapidariamente se secondo te, se l'anno prossimo lo Eurovision sarà a Kiev o in qualche altra località dell'Ucraina, secondo te la Russia parteciperà? Io spero vivamente di sì. Io spero vivamente di sì. È chiaro che gli stessi russi stanno chiedendosi se sia il caso di andare, perché davanti a un palazzo dello sport, a uno stadio pieno, partecipare come Russia e essere sottoposti a una probabile valanga di fischi, come già successe in Lettonia nel 2003, le tattoo non vennero accolte bene proprio per i vecchi dissidi tra russi e lettoni, avrebbe anche dei contro. Io spero vivamente di avere la Russia, perché già per motivi politici stiamo facendo a meno della Turchia, noi nel mondo dell'Eurovision, perdere la Russia sarebbe molto grave. E non sono solo canzonette. L'ultima domanda che ti voglio fare è quella relativa all'Italia, perché Francesca Michielin, noi speravamo almeno in una top 10, dal decimo posto in su, non ce l'abbiamo fatta. È come una gara di ciclismo, non eravamo in gara, eravamo nel centro del gruppo e insomma siamo arrivati, quando arrivare decimi o arrivare sedicesimi statisticamente è quasi uguale. Oltretutto il nuovo regolamento dà un pochino più di spazio alle diaspore organizzate, quindi ha portato nel televoto i paesi con la più alta emigrazione possono imporsi. Esatto, un'emigrazione motivata, però noi abbiamo tanti italiani sparsi per l'Europa, ma non sembriamo così motivati nel sostenere la nostra canzone. Certo, magari la nostra, oppure emigrazione di vecchia data che non ha più interesse o affetto o trasporto nel votare il nostro cantante. Polacchi e bulgari si impegnano molto di più. Ecco, però Francesca ecco. È stata, fino all'altro ieri, era la ragazzina che aveva vinto X Factor, seconda sotto da Sanremo, adesso ha fatto l'Eurovision, c'è stata questa favolosa sinergia con Rai 1, quindi Francesca è stato il volto che ha partecipato alla manifestazione e ha anche avuto l'occasione di essere presentata agli ascoltatori di Rai 1, che era l'altra grande novità. Insomma, certo, la prima volta sulla rete Ammiraglia. Esatto, la prima volta dopo 25 anni. L'ultima volta in diretta era in diretta da Roma e presentavano Giulietta Cinquetti e Toto Cutugno. Adesso ci sono stati i commentatori, i telecronisti dal posto, anzi un applauso. Bravi, bravi, bravi. Per a Federico Russo e Flavio Instin, insomma, e a tutta anche la squadra Rai che è riuscita a fare i capolavori. Quando si dice la Rai fa le trasferte da 150 persone, no, questa volta eravamo pochi, credo buoni, però essendo pochi e avendo poco tempo si sa tirare sulle maniche e lavorare. Questo è stato anche un'altra parte di quelle dietro le quinte molto belle. È stata una bella sorpresa per me, che ho avuto l'onore e l'opportunità di fare parte di quella squadra. Di tra l'altro tra poco parleremo ancora di Rai in RadioTube, ma insomma vi sorprenderemo, vi faremo un po' sorridere, ne parleremo tra poco in RadioTube. Grazie a Eddie Anselmi per essere stato con noi, a presto Eddie. A presto. Allora, un abbraccio a Eddie. Noi abbiamo un brevissimo momento di pausa, perché adesso è il momento di dare la linea a Enrico Pagliarini e al GR24 delle 17, quindi appunto saremo ancora insieme per RadioTube.